Letture di Radio 24. In un'intervista esclusiva pubblicata sull'ultimo numero di Domenica, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, Luigi Sampietro incontra Derek Walcott, premio Nobel per la letteratura, che nei prossimi giorni sarà a Milano per ricevere il premio Choice Montale 2012. Tanto tuonò che finalmente piove. Arriva a Milano Derek Walcott e questa volta è per ricevere il premio Choice Montale. «Sono onoratissimo», mi dice subito. «Ho ricevuto altri premi, ma questo è speciale, perché è il Montale e perché è a Milano, dove sono stato tante volte e dove ho insegnato, dove ho tanti amici. La premiazione avrà luogo nell'Aula Magna dell'Università Statale il 12 aprile. Vado con la memoria alla prima intervista a Boston. Ricordo anche la mia prima domanda. Da un paio d'anni, assieme a quelli che sarebbero diventati i suoi studenti a Milano, commentavamo in un seminario semiprivato e fuori da ogni curriculum quell'autoritratto di artista da giovane che è Another Life. Mi ero imbattuto per caso nel volume dei Collected Poems, 1948-1984, e avevo pensato di farlo leggere agli studenti, per due buone ragioni. Perché, essendo un artista di prima grandezza, Walcott poteva stimolare qualsiasi confronto e perché era sconosciuto in Italia. Nessun suggerimento, internet ancora non esisteva, poteva venire da nessuna parte e saremmo stati al riparo da qualsiasi frase fatta o giudizio precostituito. Ciascuno di noi si sarebbe trovato da solo davanti alla fatale domanda. Che cosa si può dire di questo verso? E di questa strofa? Le risposte furono ovviamente millanta per un intero anno. E mentre gli studenti più avveduti via via scoprivano che un grande poeta è anche una gazza ladra e che il suo nido è sempre pieno di prestiti, fu subito altrettanto chiaro che le parole di Walcott smentivano gran parte delle nostre aspettative e delle nostre convinzioni sui poeti e sulla poesia. Cosicché, quando ebbi occasione di andare a intervistarlo, furono i ragazzi della Statale a formulare per me il primo quesito. «Mr. Walcott, la sua è un'opera che ha fatto propria la grande lezione del modernismo». Ma il lettore europeo rimane colpito dall'assenza di quel pessimismo intellettuale e di quel cinismo di fondo che sembrano inevitabili in tanti scrittori del XX secolo. Una considerazione che ripropongo oggi, un quarto di secolo dopo, e la risposta di Walcott è quasi la stessa, parola per parola. Ed è in sostanza la stessa che delinea nella sua prima raccolta, 25 Poems, pubblicata nel 1948 a soli 18 anni, in cui la ragione della speranza è riposta nella presenza fisica della natura, piuttosto che nelle iniziative e nelle istituzioni degli uomini, comprese quelle di carattere religioso. È difficile svegliarsi davanti al fulgore di una mattina caraibica e mettersi a ripensare agli orrori della storia, guerre, pregiudizi, gulag, stermini, come potrebbe fare e ha fatto più di un poeta europeo. Si potrebbe dire che la poesia europea ha come sua metafora centrale il tramonto, quella caraibica, il crepuscolo dell'alba. Da una parte c'è un'enfasi sulla ripetizione della storia, dall'altra su di un continuo inizio. Walcott è un pittore, nonché un poeta, e proprio in esergo a Another Life ha posto una citazione tratta da La psicologia de l'art, in cui André Marot confuta la leggenda, tramandata dal Vasari, secondo la quale Cimabue sarebbe stato colto da un moto di ammirazione vedendo il pastorello Giotto che disegnava una pecora. Per Marot non poteva essere l'oggetto dipinto, la pecora, a instillare in Giotto il desiderio di creare, cioè di ritrarlo, bensì, al contrario, il dipinto di quell'oggetto. E questo perché ciò che stimola in un giovane la vocazione dell'artista è il fatto che in un dato momento gli capita di vedere un'opera d'arte che lo avvince, nel caso di Giotto probabilmente una tavola di Cimabue, e non certo l'oggetto che questa rappresenta. La domanda è, come si concilia questa affermazione con il fatto che, come Naipaul ha sempre sostenuto, prendendo l'idea da Anthony Trollope, nelle Indie occidentali britanniche non è mai stato creato nulla? Come si esce da una simile impasse arrivando a scrivere Homeros? La risposta è precisa, ma ho l'impressione che, al di là della sua profonda identificazione con i Caraibi, a Walcott interessi meno essere il primo di una nuova letteratura che non l'ultimo grande di una grande tradizione. Sarebbe forse meglio dire che a causa della loro indifferenza sono i britannici a non avere creato nulla nelle West Indies e di avere lasciato in eredità un danno psicologico che è difficile da riparare. Ma un'eredità del colonialismo è anche quella lingua inglese di cui Walcott scoprì fin da bambino di essere follemente innamorato e i cui grandi monumenti, da Marlowe a Milton, ha sempre pensato di volere prima imitare e poi emulare. I poeti della mia generazione hanno avuto il privilegio di trovarsi davanti a un paesaggio e a un'umanità che non era mai stata descritta, sapendo anche che potevano contare sull'esempio di chi aveva mostrato con quanta eleganza ed efficacia lo si potesse fare. Avete ascoltato la lettura dell'intervista di Luigi San Pietro a Derek Walcott dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Francesca Enunziata, il romanzo di Maria Orsini Natale dal quale Lina Wertmüller ha tratto l'omonimo film, narra la storia di Francesca, un'imprenditrice che porta avanti la tradizione di un'antica famiglia di pastai napoletani. Quando una delle sue figlie si ammala gravemente, Francesca fa un voto. Se la bambina sopravviverà, adotterà un'orfana. La notte prima del suo arrivo, nell'orfanotrofio cresce l'attesa per scoprire chi di loro sarà la prescelta. Nunziata non riusciva ad addormentarsi. Un pensiero la teneva eccitata. Fissava le ombre che la suora, svestendosi, tracciava sulla mussola bianca e sgranava su quel teatrino silenzioso l'intensità festosa dei suoi occhi nocciola che avevano dentro il sole. L'indomani una di loro sarebbe stata scelta. Poi sarebbe andata via dall'orfanotrofio per entrare in una casa piena di sole, tende di velo alle finestre, fiori nei vasi e rampicanti nei giardini. Una di quelle case che lei intravedeva nelle passeggiate del giovedì e della domenica pomeriggio. La signora sarebbe venuta domani. Sarebbe venuta, aveva detto la superiora, a sciogliere un voto. Questa nobile dama, aveva spiegato madre Clementina, che tiene un mulino grande quanto un paese, ha chiesto, e dalla Madonna Santa ha ottenuto, una grazia straordinaria, la guarigione di uno dei suoi 9 figli, uno dei più piccoli, una bella bambina che stava morendo. Povera Nennella. La signora alla Vergine aveva fatto una promessa. Se salvava la sua creatura, lei avrebbe adottato una figlia della Madonna, una come voi, senza mamma. E domani questa santa donna viene a scegliere un'orfanella e poi, dopo qualche giorno, se la porta a casa sua. Sentiva Nunziata, nella saggezza offerta dei suoi 8 anni, che l'indomani per lei o per una delle sue 13 compagne, le più piccole dell'orfanotrofio, tutto poteva cambiare, e di un subito, come per incantesimo, e per una soltanto di loro. La signora che doveva arrivare era come l'orco e il re, che potevano dare la vita o la morte a loro piacimento, la vita o la morte. E Nunziata la morte la conosceva bene, l'aveva fissata molte volte, perché difficilmente c'era una salma nel paese che le orfanelle non vegliassero e seguissero nel funerale, specie le più piccole, perché più adatte a intenerire e a influenzare la consistenza dell'obolo. L'altra volta, quando era stata scelta Maria Rosa, 5 bambine erano rimaste chiuse nel dormitorio e tra esse c'era anche Nunziata. Le monache le avevano tenute nascoste perché, per misure igieniche prese dalla superiora, a tutte e 5 erano stati tagliati i capelli a 0 e sulle loro misere cocuzze la sera veniva strofinato il petrolio delle lampade, lo scisto. Domani ci sarebbe stata anche lei e si perdette nel sonno. La superiora madre Clementina le aveva fatte schierare in fila contro il muro e, scivolando da un capo all'altro, interrompeva il picchiettare delle dita per sistemare con gesti rapidi e veloci fiocchi e colletti. «Su, su, bambine! Ecco, brave, brave! Accussì, accussì!» Sul portone, don Gioacchino, il prete del convitto, con la testa infossata e il solito suo gesto di lisciarsi le mani come per insaponarle, guardava al cielo contento di vederlo così limpido e ammiccava sorridendo ad alcune orfanelle grandi affacciate sul lato del brefotrofio. Il povero sacerdote, nell'abito talare che sembrava rivestisse una gruccia, batteva di continuo i piedi per riscaldarsi. Però non si muoveva dal posto di osservazione alla sommità degli scalini. Desiderava essere pronto ad accogliere le persone in arrivo. Poi ci fu il suo «Eccoli, eccoli!» che rimbalzò e si ripeté tra i gruppi in attesa. «Eccoli, eccoli!» Affrontando la breve scalinata già ripetutamente e perigliosamente, si inchinava nell'ossequio e con tutte e due le mani sorreggeva la veste nera, facendo ancor più avventuroso il suo discendere. Quando riapparve alle bambine, risalendo i gradini, precedeva di un passo gli ospiti e aveva il braccio steso in un largo gesto di invito. Dietro di lui, nel riquadro luminoso, lentamente appariva una formosa e alta figura di donna. Vestiva di grigio, di stoffa amarezzata, abito e mantellina, Dallo scollo della cappa, dagli ampi spacchi delle maniche, apparivano montature di trina bianca che orlavano collo e polsi. Sul capo portava, inclinato sulla fronte, un bellissimo cappello, con pallide rose di seta, snervate e languide nei petali dischiusi. Una veletta perlata dava ombra al viso olivastro, pastoso e morbido, e a due occhi lunghi, nerissimi e severi. La signora era arrivata. Si fermò un attimo sulla soglia mentre accanto a lei emergeva una figura maschile. Poi, ignorando il gesto del prete che voleva portarla verso destra, nella sala attigua per un rinfresco, si diresse dall'altra parte, verso la fila delle bambine. La risalì tutta e si fermò a guardarle una per una, il volto senza sorriso. Quando arrivò davanti a Nunziata, la bambina implorò in silenzio, il faccino sollevato e gli occhi intensi. «Pigliate a me, pigliate a me!» E trattenne lo sguardo della donna per un lungo momento prima di abbassare la testa arrossendo. E mentre si guardava la punta delle vecchie scarpe che aveva lucidato con tanta cura, ripeteva muta «A me, pigliate a me!» La donna passò oltre e, giunta all'ultima della fila, tornò indietro piano, altera, ripassando la riga senza più esaminarla, e la seguivano il prete e il bell'uomo in panciotto di broccato che era arrivato con lei. Poi affrontò tutto il gelido spazio che la separava dal salone. La cerchiavano le suore, guidandola con garbo verso l'approdo lontano del biancheggiare di un tavolo, e le ampie tese dei loro cappelli avevano un lento moto come di sereni frangenti. Timide, compunte, le mani unite come in preghiera, le religiose, precedendola e seguendola, l'accompagnavano con cerimoniosi «prego, prego!». E nella premura di farle strada e nel riguardo di cederle il passo, indietreggiavano e avanzavano a piccole movenze, ondeggiandole d'intorno come in una danza. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Maria Orsini Natale, Francesca e Nunziata, Avagliano Editore, 396 pagine, 16 euro.